Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flavio Suardi. Ciao Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Caro coach Dan Peterson, buongiorno. Ciao Carlo, ciao Flavio, amici sportivi proprio di Radio 24, buon pomeriggio, good afternoon. Everybody. Siamo tutti un po' mogico, oggi l'unica parola che mi viene in mente, ma credo anche a te, è delusione. L'unica parola che mi viene in mente è delusione, che esce dalle contrade senesi e che cola su tutto il basket italiano. Anche se non è difficile immaginare in giro magari qualche sorrisetto, perché sappiamo come siamo fatti, però Siena fuori, certo, è un colpo brutto. Certo, certo, ma è chiaro, c'è qualcuno che gode per disgrazia dei terzi, e questa purtroppo è gente veramente piccola di mente, però esistono, perché questa è stata una cosa non solamente negativa per la Mensana Montepaschi Siena, ma anche per tutto il basket italiano, che non manda neanche una squadra alla quarta finale, e poi uscite, cioè Benetton Treviso nella qualificazione, Milano e Roma nel regular season, e adesso Siena che esce dopo top 16. Questo veramente, siamo ai minimi storici quasi per basket italiano in Coppa di Campione Eurolega. Per me, io non mi ricordo un'annata veramente con così poche vittorie, se facciamo il conteggio, sì. Io penso che sì, totale vittoria, veramente il minimo storico nella storia del basket italiano nell'Eurolega e nella Coppa di Campione. 800 24 00 24, numero verde per intervenire, già un sacco di messaggi al 349 238 6666. Coach, naturalmente hai raccontato la partita ieri sera per Sport Italia e ti ho seguito con attenzione come tutti gli appassionati di basket. Coach, Siena mi ha deluso in realtà, solo Domerkant una grandissima partita, al secondo tempo di T-Mac, dopo un primo tempo in cui non si era visto, il primo tempo e il terzo quarto di Sato, Lavrinovic male, in cattive condizioni, Stonruk insolitamente impreciso, tanti errori difensivi a rimbalzo, rimbalzi offensivi importanti presi dal Maccabi, che pure non è una squadra di colossi. Insomma, tante cose che non hanno funzionato bene per Siena. Ah, assolutamente. Poi io, quando dico questo, che nessuno pensi che io stia cercando di fare un alibi, una scusa per Siena, ma è chiaro che loro, non avendo un campionato con la Serie A che offre una partita durissima ogni domenica, non sono abituati alle partite durissime. Loro hanno perso dove? A Istanbul, quarto quarto, a Madrid, quarto quarto, ieri sera, quarto quarto. Perché in Italia, quarto quarto, dove sono i vari Stonruk, McIntyre? Sono in panchina perché sono a più 35 e Pianigiani, buon cuore, non vuole ammazzare nessuno. E quindi la squadra soffre il fatto di non giocare in un campionato competitivo, ok? Quindi, come non so, Spagna, cioè lì ci sono cioè Malaga, Real Madrid, Barcellona, Badalona, Vittoria, tutti quanti che ti fanno assolutamente morire, e squadre come Barcellona, Real Madrid vanno in questa manifestazione e vanno bene. Tutte le squadre, le quattro squadre spagnole sono andate a top 16, tutte e quattro o primo o secondo nel girone in cui hanno fatto, quindi la differenza è abissale adesso. E l'Italia, le squadre italiane, ma pure Roma, pure Milano, pure Treviso, hanno sofferto, hanno pagato questo fatto che il campionato non offre fortissima competizione, sì, e dover giocare la morte ogni domenica. Anche se c'è un appunto che adesso fa Flavio Suardi, molto corretto. Intanto Minucci sta intervenendo in questi minuti a Sky Sport 24 e sta dicendo: non abbiamo nessuna chance per competere in Europa, ci vuole un nuovo progetto. Dunque, praticamente Ferdinando Minucci sta dicendo: questa Siena è finita, si ripartirà da una squadra nuova, come peraltro già si sapeva ancora prima di questa partita. Yeah. Flavio. Ma coach, io stamattina, proprio andando sul tuo discorso, ho provato a fare una ricerca e sono andato a vedere la situazione dei vari campionati in Europa, e allora ho notato questo: in Grecia il Panathinaikos, che è fuori dall'Eurolega, è 17-1, e forse questa è la situazione un po' più simile rispetto a quella di Siena, però l'Olympiakos è a 15-3. In Polonia il Procom ha vinto 20 partite e ne ha persa una, il Barcellona ne ha vinti 21 e ne ha perse due, il Maccabi Tel Aviv in Israele ha vinto 14 partite e ne ha persa una, e dietro non ha praticamente nessuno. In Russia CSKA 12 vinte e una persa, Khimki poi 10-3. Allora, a questo punto io mi domando e ti domando: non è che poi le altre stiano poi così meglio a livello di competitività dei loro campionati, oppure questi numeri non dicono praticamente niente e insomma il discorso è diverso? Ma innanzitutto in Grecia è chiaro che Marussia ha battuto Panathinaikos nella Coppa, Olympiacos nella Coppa, cioè, quindi c'è competizione lì. Israele, adesso Maccabi è primo, però loro stanno soffrendo più in questi recenti anni, ma anche se nel lontano passato, quando CSK ha fatto imbattuto nel suo campionato e Maccabi imbattuto nel suo campionato, cosa hanno fatto? Hanno detto campionato l'abbiamo già vinto, puntiamo tutto su sulle Eurolega, e hanno fatto questo, ok? Siena proprio non riesce a fare questo. Poi ci sono altri mini discorsi che sembrano alibi, però sto cercando non alibi, non scuse, ma ragione questo qui. Qualcuno sostiene anche che gli arbitraggi in Italia sono molto fiscali. Quando le squadre italiane vanno in Coppa Europea, diciamo l'Eurolega, e dove è molto più permissivo l'arbitraggio, non sono abituate alle spinte, le botte, le contatti che ci sono. Non so se questo sia vero o meno, perché francamente non noto tanta differenza, però un'altra teoria. La verità è questa: Minucci, se sta dicendo che deve rinnovare la squadra, ha 1000% ragione lui, non 100 ma 1000%, perché lui ieri sera certamente ha fatto gli appunti su questa partita. Dobbiamo cambiare questo, conoscendo lui vedremo una nuova squadra a Siena. Lui ha detto alla fine dell'anno scorso: finito il ciclo progetto di 3 anni, rinnoviamo per un anno ancora, che era quest'anno qua, e andiamo adesso anno per anno. Lui ha visto che loro sono usciti dopo il top 16 e dovete credermi che lui farà una rivoluzione totale. Vediamo cosa succede, però lui ha certamente imparato cosa deve fare, perché come avete detto voi all'inizio, una grande delusione per Siena e ovviamente per tutto il basket italiano. Poi siamo minimi storici con la nazionale, sì, minimi storici con le squadre in Eurolega. Coach, per chiudere, io voglio chiedere ancora un'analisi tecnica su un ultimo quarto che non ha spiegazioni. 43 punti subiti dal Maccabi, da Siena con il Maccabi, sono tra l'altro record di Eurolega per un quarto di gioco, una cosa impensabile. Tecnicamente cosa è successo secondo te? Io ti voglio dire una piccola cosa tecnica. Abbiamo visto 3 passaggi alla fine suicide, cioè, che sono state intercettate, convertite da Maccabi in contropiedi. Quando tu fai un passaggio a quel livello lì, non è sufficiente fare il passaggio, devi fare finta di passaggio e poi il passaggio, 2 finte di passaggio e poi il passaggio, 3 finte di passaggio e poi il passaggio, cioè, non si può fare una cosa con sufficienza o la presunzione che il passaggio arriverà. Sono su ogni passaggio, e quindi la mini tecnica ti torna in faccia. Ma anche Siena ieri sera è stata molto contratta i tiri liberi, hanno sbagliato una dozzina di tiri liberi, 10 tiri liberi ieri sera, e questo rispecchia, hanno avuto poche palle perse, però i tiri liberi, quando ti tremano le gambe, i tiri liberi non vanno dentro, non è la mano che trema, sono le gambe che tremano, perché c'è la grande tensione, e resistere sotto quella pressione per 4 quarti, Siena non è in questo momento in grado di farlo. Grazie coach, alla prossima. Ciao ragazzi, buon venerdì a tutti, ciao. Grazie coach. Palla spicchi. Dunque torniamo, io voglio farvi sentire subito Simone Pianigiani ieri sera, conferenza stampa subito dopo la partita, sulla gara giocata dalla sua Siena. Siamo molto dispiaciuti, credo che anche oggi ci abbiamo provato per tutto quello che era qui di difficile. Abbiamo fatto anche una buona partita a lungo, eravamo di nuovo avanti nel secondo tempo e conducendo e sbagliando in quei momenti lì anche qualcosa di ben costruito in attacco, poi di nuovo qualche palla vagante lasciata a loro, i tiri che loro hanno saputo sfruttare, insomma ancora oggi prima degli episodi e poi in fondo quando abbiamo visto prima che ci è sfuggita la partita, dopo non abbiamo avuto la forza di tenere lo scarto di 5 che volevamo, abbiamo dimostrato quanto eravamo crollati a quel punto mentalmente dopo aver visto sfuggire sia la vittoria sia la differenza canestri. Non sarebbe servito poi recuperare qualche punto sopra i 4-5 punti con la vittoria di Madrid, però insomma sarebbe stato magari un segnale diverso, ce lo saremmo anche meritati. Questo era Simone Pianigiani, invece saluto e ringrazio Luca Chiabotti, prima appena del basket sulla Gazzetta. Ciao Luca. Ciao a tutti. Ciao. Minucci ha appena dichiarato, insomma appena chiuso il ciclo di Siena, no? Anche a parole, ha appena dichiarato questa squadra non ha possibilità di vincere in Europa, servono un nuovo progetto e giocatori adatti. Il giorno dopo la grande delusione, queste le parole di Minucci. Mi sembrano un po' esagerate, nel senso che in questa mancato risultato c'è stata anche un po' di sfortuna, nel senso che il girone non era buono, il sorteggio non era buono, la squadra è arrivata come l'anno scorso con dei problemi nei momenti decisivi. Io sono un po' allergico quando sento che le nostre squadre, soprattutto una Siena che domina in Italia, non è del livello delle altre e non possa vincere l'Eurolega. Secondo me è chiaro che per arrivare alle Final Four ci vuole molta fortuna che Siena non ha avuto. Però nello stesso tempo mi sembra che in Italia ci sia un po' così, un po' di fatalismo verso condizioni esterne che sono reali, tipo i budget degli avversari e queste cose qua, ma dietro le quali ci si nasconde un po' sempre quando le cose vanno male. Succede in Italia nei confronti di Siena, succede a Siena nei confronti dell'Europa. La realtà è che Siena è un'ottima squadra, non ha giocato bene, non era in buona condizione e ha perso, come è logico che sia. Che sia la fine di un ciclo, probabilmente lo si diceva già dall'inizio dell'anno, che questo sarebbe stato l'ultimo ballo di questa Siena costruita in questo modo. Però insomma, se catastrofe deve essere, diciamo che non abbiamo presentato una squadra che non fosse in grado di arrivare fino in fondo. Non c'è arrivata, ci dispiace tanto, pazienza, ma aveva le possibilità di farlo e ne sono convinto anche oggi dopo l'eliminazione. Luca, volevo chiederti questo, alla luce anche del tuo discorso riguardo la costruzione della squadra. A tuo modo di vedere potrebbe cambiare anche proprio il modo di assemblarla, cioè abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni che forse a Siena mancava un po' di peso, mancava un po' l'uomo grande e grosso per essere davvero completo in tutti i ruoli anche per l'Eurolega. Secondo te cambierà anche il modo di farli questi investimenti proprio a livello di assemblaggio della squadra alla luce di quello che è successo? Sì, però Flavio, scusa Flavio, voglio aggiungere una cosa. Ieri Siena ha perso con un Maccabi che non ha un centro dominante, anzi è il Maccabi più, lasciatemi dire, meno competitivo che io ricordi negli ultimi N anni di storia del basket europeo, perché l'anno scorso Siena era uscita col CSKA, col Panathinaikos, quest'anno con avversarie un po' più abbordabili come Real Madrid e come questo Maccabi, al di là di tutto. Luca? Io credo che, o come ogni sconfitta e come tutte le persone intelligenti a Siena ne traggano la giusta lezione, che più che il centrone dominante, che in certi casi serve, in certi casi non serve, e soprattutto sono pochi e devono essere veramente dominanti, quello che sta dicendo l'Eurolega in questo momento è che ci sono dei giocatori vicino a canestro, non necessariamente enormi, ma molto atletici, e Siena, quando li ha incontrati col Barcellona, è stata, Barcellona ce l'ha il centro ovviamente, perché stiamo parlando di squadre con giocatori di 2,15, ma comunque non potentissimi, però molto atletici, e lì proprio non è mai stata neanche in partita. Quindi chiaramente la grossa riflessione, e qui sembra paradossale dirlo, la grossa riflessione secondo me più che sul centro è sul numero 4, che è forse il giocatore più amato e più incredibile del nostro campionato, che è Sean Stonerook, ma che evidentemente va in Europa e si trova con dei giocatori molto più grossi, molto più potenti. D'accordissimo, Luca. Quindi certo, ci ripenseranno, dovranno ripensarci, però ripeto, io non voglio fare l'avvocato del diavolo. Siena è una squadra che aveva in panchina giocatori come Zizis, Domerkan, Lavrinoc, stiamo parlando di elite europea, ha certamente investito, non avendo quel tipo di giocatore, su esterni molto grossi, perché ha preso Hawkins da Milano, ha mantenuto Domerkan, quindi ha Sato, quindi tutta una serie di giocatori che nella testa loro, e giustamente, dovevano sfruttare coi piccoli quello che non hanno coi grandi. Certe volte è andata bene, in Italia va sempre bene, in Europa chiaramente è più difficile. Credo che però la grande rivoluzione che farà Siena sarà per loro scelta interna, per questioni contrattuali, per come si metterà il mercato, più che per una reale esigenza di dire così non andiamo da nessuna parte. Sì, d'accordissimo, hai ragione su quello che dici, anche perché ieri sera mi sembra che la chiave sia stata la faccia di sofferenza piena di Sean Stonrook durante tutta la partita, con piccoli dettagli, con rimbalzi persi e presi dal Maccabi in momenti chiave. La sofferenza vera di Siena, leggendo la partita in controluce, è stata proprio lì, sul giocatore più amato, cioè Sean Stonrook. Sentiamo, prima di salutare Luca Cabotti, anche Giancarlo, provincia di Cremona, poi c'è Maurizio da Reggio Emilia. Giancarlo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Vorrei fare una piccolissima provocazione, nel Prego. Senso di fare un parallelismo Inter-Siena. Inter stravince in Italia, nessun giocatore italiano nei ruoli chiave, Europa idem, parlando di Siena. Ecco, non è questione di nazionalismo, è questione che a volte manca un po' di cuore. Certo, ai due migliori leader dietro la scrivania e sulla panca, però secondo me non c'è nessun leader italiano in quella squadra, e alla fine, guarda caso, quando serve il cuore nel quarto quarto, Siena non ce l'ha, e mi dispiace dirlo veramente con la morte nel cuore, perché avrebbe tutti i presupposti per vincere, ma quando serve il cuore non l'ha mai dimostrato, bisogna dirlo obiettivamente. Grazie a lei, Giancarlo. Sentiamo anche Maurizio, una riflessione interessante, anche se l'Inter ancora non è fuori dall'Europa, chissà i tifosi interisti cosa staranno pensando e soprattutto facendo in questo momento. Maurizio. Buongiorno a tutti, anch'io una piccola considerazione, pur ovviamente ammirando in maniera completa il lavoro che ha fatto Siena, che sta facendo in questi anni di crescita veramente importante, una considerazione da avvocato del diavolo ovviamente: la forza di Siena è il gruppo, il limite di Siena, gruppo. Cioè, parliamo partendo dalla semifinale persa con Maccabi, arrivare alla partita di sera con Maccabi, è cambiato, mette in campo Domercant con Kaukenas. La squadra credo che non sia cresciuta come tutti si aspettavano. L'altra considerazione, l'ho detta prima, Chiabotti, sul discorso del numero 4, è evidente. Sì. In Europa si fa fatica a vincere con Storm, non in campo, ma da protagonista numero 4. Potrebbe essere sicuramente una grandissima chiave tattica all'interno di una partita, ma non sicuramente il 4 di struttura della squadra. L'ultima considerazione sulla qualità, ovviamente, della dirigenza cestistica nazionale, soprattutto nelle squadre di prima fascia, noi vediamo che tantissimi giocatori protagonisti nelle squadre di Eurolega sono tutti giocatori passati, sì, in Italia, abbiamo visto guardando ieri, anche la stessa Siena, ma sì, anche la stessa Siena, ovviamente da squadre con budget limitati, andando a prendere veramente là dove vede, certo, il giocatore, quelle competenze. Poi abbiamo, ieri sera ci hanno fatto piangere giocatori che noi abbiamo scartato, da Blutenthal alla Henderson, a Wisniewski. Insomma, io lascio un minuto di considerazione su queste riflessioni a Luca Chiabotti, che poi saluto. Ciao Luca. Confermo, il problema non è che non li abbiamo trattenuti, è che quando sono andati via in piccole squadre, perché se ce li avesse rubate una potenza mondiale, ma Anderson è andato in Croazia, quell'altro certo. Chiaramente è stata una mancanza di programmazione, di lungimiranza, e questa fregola che abbiamo noi di cambiare tutte le squadre sempre e comunque, anche al di là dei meriti dei giocatori. Io mi permetto una conclusione, anche questa provocatoria. Il problema dell'eliminazione di Siena non è Siena, evidentemente. Il problema dell'eliminazione di Siena è che ai quarti ci sarà il Procom, e lì ci sarebbe dovuta essere Milano, almeno a giocarsela, e ci sarà il Marussia o il Partizan, e lì ci dovrebbe essere stata Roma, almeno a giocarsela. Il livello del nostro basket si vede più da queste mancanze, della mancanza di competitività nel nostro campionato, che in una partita giocata male da Siena con dei problemi, ma che insomma arriva lì, ci ha provato, ha giocato male e ha perso. Grazie Luca, alla prossima, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie Luca Chiabotti. Palla spicchi. Torniamo in studio, dunque darei una rapida occhiata a qualche messaggio, ci sono davvero tantissimi, 349-238-6666, naturalmente aspettiamo altri ascoltatori. Flavio. Ok, allora cominciamo con Marco Davarese che dice Storuk potrebbe essere un sesto uomo da favola, giocare anche da tre direi proprio di no, perché poi se ti trovi davanti Sato voglio vedere difensivo. Come difendi, però da sesto uomo si potrebbe anche fare, ma non è che la scarsa qualità del campionato sia un'opportunità mancata per Siena, per far tirare il fiato i senatori, per dare minuti e responsabilità anche ai panchinari, questo dice Riccardo. È un altro dei temi che ricorrono in questa, nei messaggi di oggi, può essere anche una riflessione questo. Da fare. Gianni da Bologna ce l'ha con Siena, dice dice la grande Virtus Bologna rimarrà per molto tempo l'ultima squadra italiana ad avere vinto l'Eurolega. Mettetevi il cuore in pace, come se ci dispiacesse. Insomma. Le altre grandi Europa hanno le stesse vinte e perse di Siena, ma come finiscono le loro partite? Più 5 o più 30? Scrive Davide da Vicenza. Questo discorso sui numeri lo rifaremo anche più avanti con Flavio Tranquillo. Sentiremo anche la sua opinione. Intanto, tra meno di un'ora inizia un Consiglio federale che ho l'impressione sarà molto lungo, oltre che molto importante. Io saluto e ringrazio il commissioner della Lega 2, Marco Moramico. Ciao Marco. Ciao e buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi in questi minuti di vigilia del Consiglio federale. Una tua riflessione sull'Italia che non ha più rappresentanti nell'Europa che conta. Sappiamo che c'è Pesaro, come sottolinea un ascoltatore, però nell'Europa che conta, e soprattutto, come diceva prima Coach Peterson, nel bilancio vinte e perse questa stagione siamo messi malissimo, mai così male. Beh, dispiace, però potevamo aspettarcelo. Direi che Siena ha fatto il massimo, ci ha provato, però i budget in Europa sono nettamente più ricchi. Marco, cosa succede tra mezz'ora e di lì in poi? Tra un'ora e di lì in poi nel Consiglio federale di Bianchi? Se avessi una palla di cristallo ve lo direi volentieri. È chiaro che sono preoccupato, ma come credo che siano tutti quelli che hanno a cuore la pallacanestro. Qui dobbiamo fare una riflessione. La nostra pallacanestro è da cambiare, il sistema dei campionati sicuramente non si attaglia più alla situazione economica e alla situazione tecnica delle nostre squadre, dei nostri giocatori e soprattutto dei nostri imprenditori. Questo è un dato di fatto di cui credo il Consiglio federale dovrà prendere atto. Aspetti decisioni importanti da dalle discussioni di oggi? Non me l'aspetto oggi, anche perché prendere decisioni in fretta senza approfondire i problemi non credo sia una cosa saggia. Quello che noi ci aspettiamo è che il campionato di Lega 2, che è un campionato interessante con partite che si giocano sempre all'ultimo sangue e finiscono di pochi punti, sia un campionato da salvaguardare. Avremo una grande Final Four a Sassari questo weekend, con tutto esaurito e con un'attesa frenetica ormai. Marco, volevo chiederti conto delle decisioni dell'Assemblea di Lega per quanto riguarda soprattutto un comunicato che ho letto questa mattina, che riguarda il meccanismo delle wild card, che dice l'Assemblea di Lega: se è ritenuto valido per la Serie A deve esserlo anche per la Lega 2. Vogliamo approfondire un attimo questo aspetto, anche per chi magari non è addentro a queste questioni? Cercherò di spiegarlo, perché in effetti è abbastanza complicato. Cosa succede? Fino a quest'anno noi avevamo due promozioni in Serie A, una promozione immediata con la vincita della stagione regolare e l'altra con la vincita dei playoff. A settembre c'è stata una nuova convenzione con la Federazione Lega Serie A, senza che noi ne sapessimo nulla. Sono arrivati e hanno detto: dall'anno prossimo ci sarà una sola promozione e la squadra non promossa, la seconda classificata, sarà compensata con 500.000 euro. Ma questa non è una cosa che abbiamo trattato, è una cosa che ci è stata imposta. E diciamo che il motivo è che bisogna dare solidità ai campionati professionistici, che gli imprenditori devono programmare, eccetera. Ora io dico, noi siamo nella stessa identica situazione, io non ho apprezzato questo, credo che non sia una cosa che vada a vantaggio della pallacanestro, ma se la federazione pensa che questo sia giusto per il campionato di Serie A, deve essere anche giusto per la Lega 2, dove ci sono imprenditori, pubblico, società, e dove, devo dirlo, noi perlomeno gli italiani li facciamo giocare. Sì, no, tutto questo lo trovo assolutamente sacrosanto. Volevo ancora chiederti una cosa, Marco. In questi giorni abbiamo letto, soprattutto sulle pagine del Corriere dello Sport, il grido d'allarme innescato da Mascellari sullo stato, sulle difficoltà che incontrano i proprietari. Tutti sono in difficoltà, non ho letto però possibili soluzioni al di là di quella strada lunghissima che è la modifica della legge 91. Beh, sono d'accordo sul fatto che la 91 andrebbe modificata per gli sport che non sono il calcio, però bisogna anche essere realisti, quindi vedere quello che in effetti si può fare. Quello che si può fare è cercare di abbassare i costi dei giocatori, che contano tantissimo nell'economia di una società, contano per l'80%, e cercare di aumentare i ricavi, quello che dovrebbe fare ogni azienda. oggi nel nostro, nella nostra Lega ci sono almeno 3 società che stanno pensando di, e che stanno lavorando per avere un nuovo impianto, un nuovo palazzo dello sport, perché quelli attuali sono troppo piccoli per contenere i tifosi. Io credo che questo sia un grande messaggio, però questo succederà se ci lasceranno lavorare, se il nostro campionato rimarrà un campionato interessante a girone unico, e se avremo la reciprocità nelle promozioni e retrocessioni, altrimenti credo che anche i nostri imprenditori faranno un passo indietro e probabilmente ci divertiremo meno tutti. Una cosa, tornando in campo, Marco, le Final Four di Coppa Italia, Reggio Emilia Veroli alle 18:15, poi Banco Sardegna Sassari e nel Brindisi alle 20:45 sono le semifinali, e poi la finale domenica alle 20:30. Che kermesse ti aspetti da questa 2 giorni di Sassari? Beh, intanto un'organizzazione, devo dire, di primissimo ordine, squadre agguerrite che vogliono vincere il primo traguardo stagionale, una festa dello sport, perché il pubblico di Sassari è uno dei pubblici più corretti, quello che amiamo dire che è un pubblico che tifa per e non contro, quello che vorremmo vedere in ogni palazzetto dello sport. E poi la gara delle schiacciate, che questa è la cosa innovativa, con una wild card all'ultimo momento, questa è una wild card positiva però non negativa, che viene data a Ibi, che è un giocatore straordinario che gioca a Rimini, e poi vedremo, perché ci saranno anche 2 giocatori che saranno espressi dalle semifinaliste che perderanno l'incontro, quindi uno zuccherino anche per loro, un giocatore che va nella gara delle schiacciate. L'altra cosa, se mi permetti, sì, e finisco, per la prima volta l'MVP e il miglior giocatore italiano verranno decisi non dai giornalisti ma dal pubblico. Il pubblico lo potrà votare attraverso SMS o andando sul sito della Lega, www.lega2basket.it, e potrà votare il giocatore preferito, perché ci teniamo ad accorciare la distanza tra gli sportivi e i giocatori. Mi sembra una grande idea. Io incarico da ora Flavio Suardi di darci tutto il resoconto nella prossima puntata di Pallaspicchi venerdì prossimo. A proposito, Marco, adesso ti lascio lavorare, però appena è un venerdì libero, buco come a scuola, allora buca, ti aspettiamo qui. Guarda, sarà un piacere. Grazie per quello che fate per la pallacanestro, perché siete importanti. Grazie davvero, Marco, buon amico, buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie a voi. Torniamo agli ascoltatori. Roberto da Rimini, Simone dalla provincia di Bologna. Roberto, buonasera. Sì, buonasera, salve. Io mi allaccio un po' a qualche SMS che era già arrivato. Non pensate che Siena poteva perdere qualche partita in campionato, fare, diciamo, riprendere quei giocatori che non erano al top e hanno giocato spesso e volentieri anche non in condizioni, diciamo, migliori, e facendo giocare qualcuno dalla panchina, eccetera eccetera, insomma, magari arrivare a una partita importante come quella giocata in delle condizioni, sì, caduta la linea, però nel senso è chiaro, con un po' più di benzina nelle gambe, nel cervello, un po' più di benzina anche emotiva. Ma Carlo, tu sei convinto che Siena non l'abbia fatto questo discorso? No, io qualche volta le ho viste alcune rotazioni, forse non come quelle magari che abbiamo visto fare ad altre squadre a livello europeo, però non credo che Siena sia sempre andata al 120% in questo problema campionato. Il problema è che Siena non viene nemmeno attaccata dalle avversarie, perché torna a ripetere, se io penso che insomma, Bisniewski, Alan Henderson e tutta questa gente, Doron Perkins che è un playmaker, che è un giocatore, che è una guardia, che ha navigato per 1000 campionati, compreso quello giapponese, insomma non mi sembra che questo Maccabi sia così superiore ad esempio a Milano, ad esempio a Roma, ad esempio a Bologna. Eppure il Maccabi ha attaccato sul serio, ha messo con le spalle al muro, alla fine ha battuto ed eliminato Siena. Le altre in Italia non lo fanno, e questo per me rimane un grosso cruccio. Simone. Buongiorno, buon pomeriggio. Io chiamo dalla provincia di Bologna, però siccome si parla di basket non sono provinciale, però chiamo da Imola, allora vorrei dirlo, perché a Imola comunque ci siamo anche noi nel basket da tanti anni. Ma certo. Vi ho chiamato anche perché il 20 febbraio sarebbe stato il 34esimo compleanno di un nostro concittadino, Enrico Ravaglia. E niente, volevo solo ricordarlo, avevo provato a chiamarle settimane scorse, sono un po' in ritardo, ma penso che non ci siano momenti giusti o sbagliati, perché appunto quando si parla anche in queste puntate di mancanza di talenti italiani o mancanza pure di non lungimiranza, vorrei ricordare un grande talento che non c'è più, che forse 34 anni avrebbe avuto una grande carriera. E ha fatto benissimo, così come lo ricordiamo noi. Mio coetaneo peraltro, 23 dicembre 1999, il 23 dicembre più triste degli ultimi anni da questo punto di vista. Insomma, e proprio 23 dicembre scorso insomma abbiamo alzato una preghiera alla memoria di Chico Ravaglia. Comunque lo ricordiamo di nuovo volentieri e tutte le volte che volete naturalmente. Dunque adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24 è il numero verde. Michele da Brescia, seguo la vostra trasmissione da profano, grazie, fa benissimo. Potreste approfondire il discorso di Storoche del numero 4, scusando la mia ignoranza, di calciofilo, scrive Michele. Il numero 4 è l'ala grande, il secondo lungo, è quello che deve prendere rimbalzi, che deve dare una mano sotto canestro, e si discute della taglia, della stazza, dell'atletismo, dell'adeguatezza offensiva e difensiva di Storuca a livello di Eurolega. Palla spicchi. C'è un ascoltatore, Giuliano, che ha una sua particolare formula per la riforma dei campionati, che è questa: le prime squadre per budget pubblico, Milano, Bologna, Siena, eccetera, solo in Eurolega, ovviamente più lunga e senza nessun obbligo di italiani, poi campionato nazionale unico a 1 più a 2, con solo italiani più due stranieri. Questa è la riforma dei campionati di un nostro ascoltatore, che è anche una formula su cui si potrebbe discutere. In giorni di delusione fa piacere più che mai sentire, farci compagnia tutti insieme. Flavio Tranquillo, salve. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senti Flavio, oggi abbiamo mille rimpianti, no? Il mio peggiore è che Siena 3 mesi fa avrebbe avuto le gambe e le energie mentali per completare ciò che stava facendo fino al terzo periodo. Poi ci sono quei 43 punti nell'ultimo quarto, record negativo per l'Eurolega, e contro Siena è una contraddizione in termini, un ossimoro. Flavio. Sì, direi assolutamente. Il quarto periodo di Tel Aviv e il quarto periodo di Madrid sono le due svolte negative della stagione, sono assenza di energie fisiche, assenza di energie mentali, sono l'età dei giocatori, il logorio della vita moderna, eccetera, eccetera. Sono delle cose che si sono anche viste di più, perché chiaramente Monte dei Paschi è capitato in un girone che perdonava meno rispetto ad altri gironi, però non penso che sia il momento di fare i processi, peraltro è il momento di rendersi conto che con questa squadra in queste condizioni pensare di dire vinco l'Eurolega non era una prospettiva facilissima, onestamente. Come ben saprai, Ferdinando Minucci ha detto pochi minuti fa alla tua emittente a Sky Sport 24 che questa squadra è finita, che questa squadra non era così in grado di vincere l'Eurolega, che serve un progetto nuovo e servono giocatori diversi. Il che mi trova d'accordo. Ho solo la piccola riserva che se questa era la valutazione di adesso, perfetto, se questa era la valutazione anche all'inizio della stagione o meglio durante l'estate, allora forse sarebbe valsa la pena, dico per dire, di lasciare andare via McIntyre, lasciare andare via Sato per fare due nomi che avevano quel po' di mercato durante l'estate e accelerare di un anno il processo, ma non fa nessuna differenza, nel senso che poi l'altra metà di quello che ha detto Minucci mi sembra sia ripartiamo con la stessa idea, cioè trovare il prossimo Sato a Iesi, il prossimo McIntyre a Reggio Emilia piuttosto che a Braunschweig o a Caceres, e quindi da questo punto di vista partire un anno prima o un anno dopo non fa molta differenza. Volevamo fare una riflessione insieme che avevamo abbozzato prima con Coach Peterson sui, insomma, si parla, uno dei temi più ricorrenti oggi soprattutto via SMS è quello di una Siena che poteva risparmiarsi nel nostro campionato, torna al tema della competitività del nostro campionato. Ora abbiamo fatto anche due conti sugli altri campionati per scoprire che le squadre leader in Europa, per le squadre leader in Europa il cammino è pressoché identico a quello di Siena. Sì, perché in Grecia il Panathinaikos è 17-1 e poi il Panathinaikos è fuori, in Polonia il Pro come 21, in Spagna c'è il Barcellona che ha perso solo due partite in stagione, il Real Madrid ne ha perse addirittura 5, in Israele il Maccabi Tel Aviv ne ha perso una sola, in Russia il CSKA ne ha persa una sola. Insomma, a livello di prime della classe non mi sembra che il cammino si differisca poi così tanto da quello di Siena. L'impressione è che sia l'Eurolega a tracciare il solco, no, nei campionati. Ma guarda, direi che ha risposto Minucci nell'intervista a cui facevi riferimento tu, ha detto non è quello il punto, e non è quello il punto, si può vincere l'Eurolega quando si chiamava Coppa dei Campioni venendo da un campionato italiano, quando era una battaglia ogni singola, ogni benedetta domenica, si poteva vincere allora un'Eurolega giocando il campionato israeliano, che era una passeggiata di salute per il Maccabi come più o meno lo è adesso, anche se il livello è salito. Non, sicuramente sono fattori, ma sono piccoli fattori, di certo non determinano da soli, perché non si possa vincere o si possa vincere l'Eurolega a seconda del livello di competitività del campionato interno, questo sarebbe follia pensarlo. La tua lettura invece dell'ultimo quarto di ieri e dell'ultimo quarto di Madrid, che sono quelli che hanno segnato la stagione di Siena? Poca energia, come detto, penso più mentale che fisica, molta difficoltà nel riuscire a sviluppare un gioco offensivo che ha bisogno di brillantezza nella testa prima che nel fisico. Ieri, oltretutto in difesa, anche prima dei 43 punti subiti nell'ultimo quarto, si sono viste cose che normalmente Siena non fa vedere, una impossibilità di contenere uno contro uno, e ci aggiungerei anche il fatto che il Maccabi ha una qualità, un livello di talento elevatissimo nella metà campo offensiva, non sa come incanalarlo, non sa come controllarlo, ha dei momenti in cui diventa un grosso boomerang, però un quarto da, non dico 43, ma da 35 punti il Maccabi ce la incana contro chiunque. Eppure guardando i nomi del Maccabi, da Wisniewski, Alan Anderson, a Blutenthal, li abbiamo mandati via noi. Perkins è stato pescato al sottobosco, no, del basket, ha attraversato mille mari cestistici. Io trovo che sia stato bravissimo comunque Pini Gershon a soffiare nell'anima del Maccabi uno spirito che in Italia non vedo una qualità così superiore complessivamente sulle due metà del campo del Maccabi rispetto a Milano, Roma, Bologna. Tu? Assolutamente. Milano, Roma, Bologna non lo so, perché non hanno grande vissuto. Assolutamente né Maccabi né Real né FS Pilsen hanno di per sé una qualità così superiore a quella del Monte dei Paschi. Ci sono delle squadre in Eurolega che hanno una qualità molto superiore a quella del Monte dei Paschi, penso al Barcellona, all'Olympiacos, almeno sulla carta, il Barcellona adesso non più solo sulla carta, ma le squadre di quel girone erano molto vicino per qualità. Per me, per paradosso, sì. Quella teoricamente, vedendo i nomi su un foglio di carta con più qualità, era l'FS Pilsen, che poi alla fine è più o meno quella che è andata peggio in assoluto. Sul discorso dello spirito, non so se abbia fatto un grande lavoro, presumo di sì Pini Gershon, ma di certo quel discorso invece è interessante. E di certo altrettanto interessante pensare che oggi Anderson e Jamon Gordon, considerati due fallimenti a Bologna in momenti in cui le squadre in cui giocavano erano una a un livello medio alto, l'altra addirittura a un livello bassissimo al punto da retrocedere, sembrano un po' meno fallimenti in questa top 16 con le maglie di Cibona e Maccabi, ma un bel po' meno. Parecchio po' meno. Flavio, sentiamo domenica per parlare di campionato. Sarà fatto. Grazie Flavio. Grazie Flavio Tranquillo. Chiudiamo il programma invece con Luigi da Milano. Sì, salve. Salve. Io intervenivo su due cose. Una detta da Chiabotti. Sì. Che non condivido affatto. Cioè? Adesso sembra quasi che Siena sia fuori dall'Eurolega perché Milano e Roma non sono andate ai quarti. Insomma, questo mi sembra un po'. No, in che senso? Una vecchia storia di Chiabotti che non ama molto alcune squadre. Vabbè. No, ma non ho capito. No, una vecchia storia di Chiabotti che non ama alcune squadre. Ma al di là di questo, cosa c'entrano Milano e Roma con Siena? Chiabotti ha detto, ma qui stiamo a parlare di Siena che è uscita, ma la verità è che mi stupisco di non aver trovato Milano e Roma nei quarti. Siena ha giocato male, è uscita, basta. Ma Luigi, ma anch'io mi stupisco. Trovando in Procom, c'è il Marussi che forse ci va, c'è il Partizan. Insomma, lo stesso Caia Laboral, voglio dire, sono squadre con cui Milano e Roma potevano tranquillamente competere. Come si dice, bene, facciamo una puntata parlando dei malefatti di Milano e Roma. Però oggi quello che ha sbagliato è Siena, ma comunque chiudo. Sì. La seconda cosa è che secondo me il vero problema di Siena, ma lo si guarda poi da che va nelle Final Four negli ultimi 10 anni, è un problema che possono mettere il budget che vogliono, fare quello che vogliono, ma c'è anche un discorso di, come dire, proprio quella famosa mentalità di cui si parla che non c'è, è che non c'è dietro una metropoli. Sì, questo sì, questo non c'è dietro la metropoli, e questo è un problema del basket italiano, perché io sono d'accordo con i discorsi che si facevano negli anni 80, le metropoli sono fondamentali. Chiudiamo qui, grazie a Flavio Suardi, grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadore in regia, ci sentiamo domani dalle 5 alle 6.